dalla voce. Sonic Ali, della Wikipedia, in lingua italiana. Sonic Ali, pseudonimo di Arne Gustafsson, Oak Grove, Minnesota, 13 maggio 1971. È un musicista e compositore statunitense naturalizzato italiano, tra i più importanti nomi della musica elettroacustica contemporanea, della biomusica e del field recording. Il nome d'arte è un gioco di parole a più livelli, significa alleato sonoro, ma i due elementi formano anche l'avverbio sonically, che in italiano, lingua del paese d'adozione di Gustafsson, si può tradurre con fonicamente, ergo fonicamente. Sonic e io ci conoscemmo a Codigoro. Era il 7 maggio del 2009. All'insaputa l'una dell'altro, ci aggiravamo in uno strano bosco, cresciuto nell'immenso rudere dell'ex zuccherificio Eridania, chiuso dal 75. Io avevo una fotocamera a tracolla e un taccuino in mano. Lui cuffie sulle orecchie e un microfono in cima a un'asta che teneva puntata davanti a sé. Incrociandoci tra le piante, entrambi sobbalzammo. E io più di lui, perché era alto, barbuto. E l'attrezzatura che aveva addosso lo faceva sembrare un cyborg, un uomo insetto. Oddio! What the fuck? Passato il batticuore, scoppiai a ridere. E lui con me. Ciao. Ciao, mi chiamo Arne. E io Antonia. Ciao. Curiosi, attaccammo a chiacchierare. Sono un artista di paesaggi sonori, mi disse. In inglese si dice soundscape artist. È più corto, ma artista di paesaggi sonori è più bello, no? Senza dubbio. E tu invece? Io sono una geografa. E scusa, concretamente, ma cosa fa una geografa? E scusa, concretamente che cosa fa un soundscape artist? Indicò l'ambiente intorno, quella specie di cattedrale foresta, il tetto di cui restavano solo i telai metallici. In un posto così, tante cose. Registro i canti di nitticore e tarabusini, per esempio. E eccolo! Eccolo! Eccolo un tarabusino! Lo senti? Sulle prime io non udì nulla. Poi percepì dei suoni sordi, staccati, ripetuti, come una sequenza di colpi di sferza dati a vuoto. Mangia bestioline acquatiche e siccome questo posto è pieno di canali, due giorni fa invece ho registrato cicogne e spatole nello zuccherificio di Crevalcore. E che ci fai con le registrazioni? Ci faccio della musica. E tu? Io? Io cosa? E tu cosa fai negli zuccherifici? Sì. E sto lavorando sui posti abbandonati del Ferrarese. Ah, ecco. È da ieri che mi stupisco di quanti ce ne sono. Non eri mai stato da queste parti? Ah, no, prima volta. Però in Italia ci sei da tanto, vero? Dai, parli in modo perfetto. Grazie. Sì, bazzico il paese da 15 anni ormai. Dall'anno scorso vivo a Padova in pianta stabile. Ma dai, ma anch'io sto a Padova. Sono ricercatrice all'università. fine degli anni 90, Gustafsson comincia a farsi apprezzare come compositore e musicista. Scoperto il vasto mondo del field recording, trascorre lunghi periodi in luoghi abbandonati dall'uomo, come villaggi fantasma e fabbriche dismesse, per registrare i suoni della natura che se li riprende, degli ecosistemi che si formano. Non sono gli stessi di prima, ma nuovi ecosistemi che non sarebbero esistiti senza la parentesi industriale e urbana. Dopo aver catturato questi suoni, Sonic Alley li seleziona, rielabora e accosta in modo molto originale. Nel 2010 con Sugar Mills of the Lower Po Valley, progetto sugli animali che vivono negli zuccherifici dismessi in Emilia-Romagna, vince il premio Bruno Maderna nella categoria tecniche aleatorie. Propose un brindisi alle coincidenze e agli incontri bizzarri. Così ci spostammo in paese. Un'ora dopo passeggiavamo sul lungo fiume. La promenade di Codigoro era essenziale, discreta. Non faceva reclam della propria bellezza, sulla quale non si specchiavano palazzi famosi, ma era un mio luogo del cuore. Guardando il volano da lì, camminandogli accanto, e più che mai in quei giorni di maggio, ti scordavi che da tempo era un canale della bonifica. Prima di giungere in città scorreva per decine di chilometri tra rivie alberate, frondose, che lo incoraggiavano, gli risvegliavano memorie, gli davano forza, coscienza di sé, rammentando a tutte e tutti chi e cosa per secoli era stato. Niente meno che il Po. E poi il tramonto, che lo rese brulicante di riflessi e sfumature di rosso. Con le insegne dei bar, le luci della città che si accendevano. E là in fondo, le due ciminiere dell'idrovoro, quello antico, nere contro il cielo scarlatto. Cenammo al belvedere affacciati sull'acqua e continuammo a parlare, sondandoci a vicenda, andando sempre più sul personale. Sentiamo, qual è la tua canzone preferita? Non posso dire di ascoltare proprio canzoni, rispose lui virgolettando l'aria della sera. Ah, allora dimmi che cosa ascolti in questi giorni, a parte gli uccelli negli zuccherifici. In macchina ascolto un vecchio album di Juan Hidalgo. Si chiama Tamaran. Gocce di sperma per 12 pianoforti. Parlare già di sperma era un bel cambio di marcia. Mi immagino scene brutte, dissi. Gente che eiacula sulle corde per sentire che suono fa. Ma no, no, no, no. È un riferimento mitologico. Hidalgo è un compositore e pianista spagnolo. Oggi ha più di 80 anni. Tamaran è il nome antico delle isole Canarie. Dice una leggenda che Atlante si masturbò e da gocce del suo sperma nacque l'arcipelago, che ha 12 isole, appunto. Hidalgo è nato là, a Las Palmas. L'album è un omaggio alla sua terra natale. Si sposa con la geografa Antonia Nevi, ferrarese, ricercatrice all'Università di Padova, che ha conosciuto durante i sopralluoghi per Sugar Mills of the Lower Po Valley.